Sentiva il mio amore, amore fra i

e lucevan le stelle. Sarra! Oh, tu m'appartieni, tu m'appartieni a me, a me. Tra voi belle lune bionde si nasconde giovinetta vaga e mezzosa dal labbro rosa che m'aspetta. Sei tu bionda stella, dillo a me, palesatemi il destino e il divino viso ardente io vegge adori eterna verte. Tra voi belle brune bionde si nasconde giovinetta vaga e mezzosa dal labbro rosa che m'aspetta. Sei tu bruna stella, dillo a me. Thank you. ardente spira oggi l'evento dell'amore. Ah, quel cuore che Vieni, o donna,